prima del Natale ci siamo preparati avendo l'esempio di Giovanni Battista e di Maria Santissima. Passato il Natale abbiamo l'esempio di alcuni che hanno incontrato questo bambino che è nato e ne hanno fatto l'esperienza fino a dare il sangue, come Santo Stefano ieri, come domani i Santi Martiri Innocenti, dopodomani San Tommaso Becket di Canterbury, o coloro che l'hanno seguito e l'hanno proprio condivisa tutta la sua vita, come Giovanni Evangelista che celebriamo oggi, il quale ci dice: noi l'abbiamo proprio toccata la vita, noi l'abbiamo veduto, udito, e noi lo annunciamo a voi, quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno udito, quello che le nostre mani hanno toccato, lo annunciamo a voi. E questo ci aiuta a fare l'esame di coscienza. Noi potremmo dire la stessa cosa in casa nostra, per esempio, o nella comunità parrocchiale. Lo potremmo testimoniare, dire: io Gesù, io veramente l'ho incontrato, io Gesù veramente credo almeno di avere una vita in rapporto con Lui, credo di poter dire che è vero il proverbio: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Perché io che sto col Signore, io che vado col Signore Gesù, mi sento veramente cristiano. Ora, a me veniva anche questo pensiero di farvi un suggerimento, una predica, per aiutarci tutti a dire come fare per incontrare Gesù, come fare per poter dire da adulti: ma io Gesù veramente l'ho incontrato. Però mi sono detto anche questo: Ambrogio, fin quando predicherai alla gente come deve fare? Mi piacerebbe che voi mi diceste: sono arrivato a 30, 50, 70 anni della mia vita e io potrei modestamente dire come San Giovanni: io l'ho incontrato Gesù. Io Gesù l'ho visto, non con gli occhi fisici, ma con gli occhi dell'anima. Io so stare in compagnia con Gesù, io condivido la sua vita. Durante la predica questo non è possibile, ma io vi suggerisco: trovate un sacerdote con cui condividere questo, per fare un serio esame di coscienza e dire: ma in casa mia, i miei figli, i miei generi, le mie nuore, possono dire che hanno imparato da me a pregare, a leggere il Vangelo, andare a messa, a educare i figli secondo la fede cristiana? Possono dire: caro papà, cara mamma, caro suocero, guardando a te, io ho imparato come si fa. Perché se così non fosse, amici, e noi dovremmo andare un po' in crisi, dovremmo un po' interrogarci. Che siamo cristiani non c'è dubbio, se no non sareste neanche qui. Che siamo persone che hanno fatto l'esperienza di Gesù, credo anche di sì, ma è il terzo passo che forse ci manca. Noi questo abbiamo saputo comunicarlo agli altri. Amici, non basta dire: ma io gliel'ho detto, ma io gliel'ho insegnato, ma io gli ho dato il buon esempio. Sì, è vero, ciascuno di noi poi alla sua libertà. I nostri figli, i nostri nipoti, i pronipoti hanno la loro libertà di seguire o di non seguire Gesù. Dobbiamo anche ammettere che se anche noi diamo l'esempio fuori di casa, in casa, alla televisione, sul cellulare, ne vedono di tutti i colori e vedono mille controtestimonianze. Però forse allora è il caso di poter dire al Signore: allora Signore, occorre davvero che tu mi aiuti a premere l'acceleratore, ma non nel dire cose, ma nel mostrare dei fatti, ma nel dare degli insegnamenti. Quante volte purtroppo, adesso quest'anno è andata come è andata per la pandemia, ma quante volte negli altri anni, in queste feste di Natale, ci si trova a tavola tra parenti e spesso vengono fuori discussioni. Tu che vai in chiesa, magari ti dice un parente, tu che sei sempre giù in parrocchia, e ti contestano e ti chiedono spiegazioni. E noi sappiamo dare queste spiegazioni, amici. Non dico di andare in giro come fanno certi missionari di altre religioni, non cattoliche, perché noi cattolici stiamo a casa, ma chiese protestanti, testimoni di Geova, altri vanno in giro ad annunciare. Non dico che noi dovremmo fare la stessa cosa, però, amici, credo siate d'accordo con me nel dire, di fronte a certe contestazioni, tu pensala così che io la penso diversamente. Non basta. Se un ragazzo nella tua famiglia, se un giovane adulto nella tua famiglia ti chiede una spiegazione, tu la devi saper dare. Del resto lo dice anche San Pietro nella sua lettera. Voi dovete essere sempre pronti a dare ragione della vostra fede. Io credo, amici, che per arrivare a dire noi l'abbiamo toccato, noi l'abbiamo visto effettivamente, noi l'abbiamo ascoltato direttamente, credo che dobbiamo fare della strada. Forse dovremmo cominciare a guardarci allo specchio e dire: ma io sarei in grado, ai miei vicini di casa musulmani, di dire perché io credo. Non basta essere nati qui, perché anche i loro figli nascono qui, ma non hanno la fede cristiana. Noi siamo in grado, senza fare proselitismo, cioè senza voler convertire a tutti i costi, ma testimonianza sì. Mi piacerebbe, cari cristiani, che vi lasciaste provocare da queste mie parole stamattina. Arrivato alla mia età, saprei dire qualche cosa? Oppure umilmente devo venire qui da qualche maestro di fede e dire: io vorrei provare a ripetere questa esperienza di Giovanni, lui che l'ha incontrato veramente faccia a faccia, e io che non posso incontrarlo così, però se c'è una strada anche per me per fare l'esperienza vera di Gesù, così da testimoniare agli altri. Proviamo a pensarci, cari cristiani.